penso che qualche anno fa mi hai visto e salutato con la mano, niente di strano. Se ripenso che, se ripenso che la novità era camminare mano nella mano, che c'è di strano? Penso che non ho avuto mai la sensazione di legarmi a te a condizione di veder svanire la mia libertà. È per questo che ti voglio dire che passo da te, passo perché ti porterò nel luogo del nostro primo incontro, in quella calda estate quando ti ho chiesto se volevi uscire con me, chissà perché. Se ripenso a te. Se ripenso a te, il giorno in cui mi hai detto è meglio se non ci vediamo, era un po' strano. Se ripenso a te, se ripenso a noi, nei giorni bui, ho capito che qualcosa era cambiato, ho sospettato. Se ripenso che la tua era solo una bugia, salita in auto sei scappata via, con quel tipo con il naso all'insù, e fino a notte poi non sei tornata più. Passò da te, passò alle tre, ti portò nel luogo del nostro primo incontro, quell'estate sì, ma da quel momento non ti ho chiesto più di uscire con me, chissà perché. Se ripenso che, se ripenso che, se ripenso a te, se ripenso che, se ripenso che, se ripenso che, se ripenso che.